Nella puntata di oggi abbiamo deciso di tornare alle origini, trattare di giochi dal mondo e cogliere l'occasione per presentarvi uno dei più antichi e più giocati, proveniente dal lontano Oriente. Il nome del Go è già saltato fuori nelle precedenti puntate, per la sua enorme diffusione, per il fatto di essere uno dei giochi astratti tradizionali che ha saputo ricucirsi un suo spazio anche in Italia, per le modalità di gioco molto singolari rispetto ai giochi astratti della nostra tradizione, perché ci permette di introdurre concetti nuovi, come quello di giochi di allineamento citato la scorsa puntata, senza dimenticare che il Go è un gioco che possiede un proprio linguaggio, naturalmente, ma anche una propria ritualità dei gesti, degli atteggiamenti dei giocatori. Il Go, come i nostri scacchi, è un gioco la cui lunga vita le ha conferito una dignità particolare, dietro al quale, forse, guardando con sufficiente attenzione, possiamo scorgere qualcosa di più profondo, un insieme di significati ed idee che rendono il Go un gioco assolutamente affascinante. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 12ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Come abbiamo anticipato nell'introduzione, il Go non si limita soltanto al gioco, alle sue regole e alle sue mosse, ma possiede anche un suo linguaggio e dei messaggi da comunicare. La cosa non vale soltanto per il Go, succede con tutti i giochi che ci troviamo a giocare, e non solo. Succede anche con tutte le cose che riguardano la nostra vita quotidiana. Questo perché, come abbiamo visto nelle ultime puntate, le cose che facciamo non appartengono a un solo ambito, o riguardano soltanto un insieme ristretto di gesti, ma in realtà si tratta sempre e comunque di un vero e proprio attraversamento di confini. Fare le cose, tutte le cose, per esempio giocare, è anche un po' parlare di noi stessi, del mondo in cui viviamo, del modo in cui abitiamo il mondo e di quello che riusciamo a raccogliere di quello che il mondo ci offre. Abbiamo chiamato a parlarci del gioco del Go Andrea Romano, giovane studente torinese, consigliere della Federazione Italiana Gioco Go, che ci è venuto a trovare negli studi di 110 e a cui abbiamo chiesto di raccontarci del Go in Italia e delle sue esperienze di gioco. Attualmente in Italia è un po' difficile quantificare quante persone giocano a Go. Si dividono in tre categorie: quelli che giocano prettamente sotto internet, quelli che giocano saltuarialmente, quindi una volta alla settimana, se non soltanto una volta al mese, e poi quelli che partecipano a tornei frequentemente. Diciamo che possiamo partire con una base di circa 200 giocatori iscritti alla federazione italiana e poi da lì andare a dare un numero preciso è un po' difficile, perché non lo sappiamo neanche noi, a dire la verità, perché varia di anno in anno, ogni giorno, anzi, ci sono nuovi giocatori che iniziano e poi alcuni continuano, alcuni si disperdono. E nella tua esperienza qual è la categoria che ti sembra più presente? A parte, sì, vabbè, chiaramente gli appassionati sono più presenti, voglio dire più numerosa. Beh, ora come ora forse i giocatori che giocano sotto internet, perché vuoi per indisponibilità nel muoversi per partecipare a tornei, vuoi perché comunque copriamo una fascia di età che va dai bambini di 12-13 anni fino a signori, comunque signore che hanno 50-60 anni. Forse quella di internet è quella più conosciuta e dove ci sono più giocatori attualmente. E hai parlato anche di annate, come va il 2011-2010-2011? Beh, diciamo che attualmente abbiamo un buon numero di giocatori iscritti alla federazione, come ho detto prima siamo circa 200. Diciamo che abbiamo ancora da fare tanti passi per metterci in gioco con l'intera Europa, perché in Europa ci sono i luoghi più dove c'è più diffusione di Go, sono la Francia, la Germania, i paesi dell'est. Noi siamo ancora molto indietro perché non c'è molta conoscenza di questo gioco e comunque non viene a volte considerato come un gioco abbastanza importante. Qual è il vostro obiettivo, diciamo, più concreto in questo periodo? In questo periodo diciamo che il nostro obiettivo più concreto è la diffusione, nel senso che vorremmo che in Italia si apprezzasse, venisse conosciuto il Go, non a livello degli scacchi, perché in Italia forse è impossibile che raggiungiamo quel livello, però a un gradino sotto non ci dispiacerebbe. Quindi la diffusione è comunque riuscire a portarlo nelle scuole o comunque a più eventi possibili da poterlo far conoscere. Bim bum bale giù! Il Go è un gioco da scacchiera per due persone. Uno dei giocatori usa i pezzi di colore bianco, l'altro i neri. La tavola del Go è un reticolato formato da 19 linee orizzontali e 19 verticali. Le pedine vanno disposte sugli incroci e non all'interno dei quadrati. Esistono 361 intersezioni, o punti. Nella scacchiera inoltre si notano 9 punti disegnati in nero che hanno un valore speciale in caso di vantaggio. Teoricamente, ciascun giocatore può disporre di un numero illimitato di pietre. In realtà esistono 181 pietre nere e 180 bianche, vale a dire il numero esatto per ricoprire tutti e 361 i punti della scacchiera. All'inizio del gioco la scacchiera è vuota. I giocatori dispongono a turno una pedina su un punto libero. Cominciano i neri. Una volta sistemato un pezzo, non è più possibile spostarlo. Una pietra o un gruppo di pietre è catturato per accerchiamento, quando cioè è completamente circondata da pietre nemiche. Le pietre catturate sono subito tolte dal gioco, messe da parte e conteggiate a fine partita. Se si dispongono in progressione tre pietre bianche sui punti adiacenti a una pietra nera, a questa rimarranno prima tre, poi due e infine soltanto una via di uscita. La pietra nera è allora Atari, cioè compromessa. Durante il turno dei bianchi, la pietra nera potrà essere catturata. Se però il turno è dei neri, è possibile mettere una pietra nera a fianco a quella compromessa. Si realizza così una fuga, creando una catena. Quando due o più pietre dello stesso colore sono allineate, appartengono tutte alla catena. Non è possibile catturare una singola pietra all'interno di una catena. Per questo si dice che la catena vive o muore in blocco, come una sola unità. Una catena si cattura come si fa per una pietra sola, cioè accerchiandola e chiudendogli tutte le vie di fuga. Può accadere che una catena o una pietra non vengano private della loro ultima uscita, ma siano fatte prigioniere. Il giocatore può scegliere infatti di fare altre mosse sulla scacchiera diverse dalla cattura. Lo scopo del gioco del Go è quello di aggiudicarsi più punti dell'avversario. I punti si contano in due modi, occupando il territorio e catturando le pietre nemiche. Controllare la maggior parte del territorio è il fattore più importante del gioco. Dopo questo breve specchietto sulle regole del gioco del Go, continuiamo ad ascoltare l'intervista ad Andrea Romano, che ci racconta del Go e della sua raffinatissima cultura. Per passare al secondo tema di cui volevo parlare con te, non si può ancora parlare di una competizione, cioè di un livello di competitività rispetto, diciamo così, ai luoghi dove tradizionalmente si è giocato il Go, come a partire dalla Cina e poi in Giappone, dove appunto è diventato, non so, tipo gioco nazionale. Sì, diciamo che siamo molto lontani, perché lì appunto è il gioco quasi nazionale, nel senso che ci sono vere e proprie scuole dove insegnano, università dove tengono corsi. Molti giocatori italiani sono andati in Corea a seguire degli stage o comunque a seguire dei corsi, e c'è da dire che da loro comunque è molto molto più diffuso, perché è nato proprio lì, quindi sì. Noi seguiamo la corrente che ce l'ha portato e speriamo un giorno di riuscire ad arrivare ai loro livelli. Ma tu hai avuto l'occasione di partecipare a uno di questi seminari? In Giappone, Cina, comunque Corea non ho avuto il piacere di partecipare. Ho avuto il piacere di seguire delle lezioni tenute da dei professionisti che, diciamo, hanno un livello che attualmente in Italia non è raggiungibile. Bim bum bale giù! E tu, per esempio, come sei arrivato a conoscere il Go? Come ti è successo? Ma in realtà io ci sono arrivato proprio per caso, nel senso che in Italia è stato pubblicato nel 2001 circa un manga, Hikaru no Go, che tratta appunto del tema sul Go nel Giappone, e per caso in edicola l'ho trovato, l'ho letto e mi sono appassionato. Adesso sono dal 2006 più o meno che ho iniziato a giocare, quindi sono circa 5 anni, e diciamo che è partito tutto da lì. Poi ci sono le persone che lo conoscono magari tramite amici, sì, o altri che appunto l'hanno conosciuto tramite questo manga. Poi i canali di diffusione sono tantissimi. E invece mi chiedevo, a tal proposito, come ti trovi tu a Torino? Nel senso, hai molte occasioni di giocare a Go faccia a faccia, oppure anche tu, diciamo così, usi internet più spesso? Ma diciamo che a Torino attualmente c'è un club, sì, di Go, dove ci troviamo non molto regolarmente per problemi lavorativi, però ci sono molte occasioni dove ci troviamo a giocare faccia a faccia, che è la cosa migliore a parer mio, perché ti trasmette tantissimo, riesci a calcolare forse anche le emozioni che prova l'avversario giocando, e quindi magari a dare un filo di umanità alla partita. Sì. Giocando sotto internet è molto freddo, nel senso che è una classica partita dove tu non sai contro chi giochi, potrebbe anche essere un computer. Bim bum bale giù! Siete all'ascolto di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su 110 Web Radio. Parliamo del gioco del Go. La nascita di questo antichissimo gioco è databile tra il 4000 ed il 3000 a.C., quando sulle rive dello Hoang-go nascevano la matematica e l'astronomia cinesi. Il Go rimase confinato in Cina per un lungo periodo di tempo, esattamente fino all'VIII secolo, allorché un ambasciatore giapponese lo introdusse nel suo paese. Il Go si afferma così come gioco cui si dedicano le classi alte della società giapponese, la classe Bushi in particolare. Tuttavia, con l'affermarsi dello shogunato di Tokugawa Ieyasu nel XVI secolo, vengono fondate delle vere e proprie accademie di Go, nelle quali viene sviluppata e consolidata la teoria del gioco che penetrerà poi, nel successivo periodo Eso, nel XVIII secolo, in tutte le classi della società, divenendo così il gioco nazionale giapponese. In Occidente il Go giunge assai tardi. La prima menzione è contenuta in un testo del missionario italiano Matteo Ricci, ma rimane di fatto sconosciuto fino al XIX secolo, quando l'immigrazione cinese negli Stati Uniti da un canto e i frequenti rapporti commerciali lungo l'asse del Pacifico dall'altro fanno sì che il Go si diffonda in quel paese. Nascono così i primi circoli o club di Go a Honolulu e a San Francisco. Quasi nello stesso momento nuclei di giocatori si formano anche in Europa ed in particolare in Olanda, in Germania e in Austria. Il momento di forte espansione del Go in Occidente è collocabile intorno agli anni 60, quando il gioco diviene oggetto di studi per psicologi ed informatici. Adesso restituiamo la parola ad Andrea Romano in un altro spezzone della nostra intervista. Siccome parlavi di gioco freddo col computer piuttosto che il gioco faccia a faccia, a me è capitato, documentandomi sul gioco, di leggere del Galatea del Go. Ma prima di arrivare al Galatea del Go, che tipo di rapporto si intrattiene col giocatore? Nel senso, qual è la socializzazione del Go tra i partecipanti? Diciamo che a livello di partita è sconsigliabile parlare con l'avversario, perché bisogna tenere un livello di concentrazione molto alto, perché comunque è un gioco che si basa molto sul ragionamento, sulla concentrazione, e a volte le emozioni che uno può provare durante una partita possono giocare brutti scherzi, magari anche determinarne la sconfitta o la vittoria. Il pubblico, perlomeno nei tornei italiani, non è presente, perché siamo talmente pochi, tra virgolette, però solitamente è consigliabile tenere comunque un comportamento civile, non urlare, cose del genere, se non l'assoluto silenzio anche nei confronti del nostro avversario, perché magari può infastidirsi. Sì, quindi assomiglia un po' più agli scacchi da questo punto di vista. Sì, esattamente, diciamo che c'è molto il rispetto per l'avversario. Ecco, e mi vuoi spiegare, sempre che abbia capito bene, cos'è questo Galateo del Go? Forse più che Galateo del Go, io le definirei dei comportamenti comunque da tenere nei confronti dell'avversario. Per esempio, uno di questi è augurare sempre buona partita all'inizio della partita e ringraziare qualsiasi sia il risultato, quindi anche che tu abbia perso in maniera disastrosa, comunque ringraziare il tuo avversario. Ci sono, naturalmente, come ho detto prima, mai disturbare l'avversario durante la partita, perché potrebbe infastidirsi tremendamente, potresti addirittura farlo sbagliare. Appunto per questo, per esempio, non bisognerebbe mai mescolare le pietre dentro, diciamo, il contenitore dove sono contenute, sì, perché è segno di infastidimento verso l'avversario. Disconfinamento. Esattamente. Poi non bisognerebbe toccare mai la tavola con le mani, anche quello lì potrebbe dare fastidio al tuo avversario. Oppure potresti accidentalmente modificare la situazione in gioco, quindi complicare un po', rimettere in sesto la partita. Poi ci sono altre, forse più che regole, degli accorgimenti personali. Per esempio, se ti accorgi di aver sbagliato una mossa, anche se l'hai già giocata, non spostarla o non chiedere di cambiarla, perché comunque il tempo per pensare uno ce l'ha. Quel caso lì sarebbe, l'avversario non lo prenderebbe molto bene. Oppure un altro accorgimento è, solitamente quando il nero, che inizia la partita, dovrebbe giocare nell'angolo in alto a destra in segno di rispetto per l'avversario che hai davanti. Sì. Poi in realtà non vengono seguite, perché uno preferisce cominciare la partita da un'altra parte. Però ci sono, e magari a qualcuno fa piacere. Sì. Bim bum bale giù! Il Go è la metafora di una battaglia. In questo senso, come gli scacchi, si tratta di un gioco astratto. C'è un gioco che non ha ambientazione, che simula lo scontro tra due eserciti. In questo senso possiamo anche dire che questi giochi possono definirsi gli antenati dei cosiddetti wargame. Il Complete Wargame Handbook descrive il wargame in questi termini. In Il wargame è un tentativo di anticipare il futuro cercando di definire una migliore comprensione del passato, combinando gioco, storia e scienza. Se non vi è mai capitato di imbattervi in un wargame prima d'ora, è più facile paragonarlo agli scacchi, con una scacchiera più complicata e una maniera molto più sofisticata di muovere i pezzi e mangiare gli avversari. Un wargame solitamente combina una mappa, delle pedine che possono raffigurare un personaggio storico oppure un'unità militare, e un set di regole che dicono quali sono le mosse consentite. Il senso di un wargame, che sia di ambientazione storica oppure no, è quello di permettere ai giocatori di ricreare un evento specifico e, più importante ancora, di esplorare tutte le opportunità di scelta che si presentano al giocatore. Un wargame in questo senso si contraddistingue per il suo estremo realismo e per il fatto di permettere ai giocatori la possibilità, attraverso le sue mosse, di dare vita a scenari di volta in volta differenti, conservando tutto il suo realismo. Per questo il wargames può affascinare un giocatore non soltanto per il gusto del gioco e della competizione, ma anche per la possibilità di esplorare mondi nuovi, realtà alternative che prendono forma secondo la volontà e la curiosità del giocatore stesso. Anche il Go, in questo senso, è un gioco che non si ripete mai, una caratteristica che condivide con gli scacchi, a cui è strettamente imparentato, come abbiamo visto, ma dal quale si distingue per alcune significative differenze. Io adesso tenterei la domanda metafisica. Ho letto da qualche parte, sempre documentandomi, che in fondo ci sono due metafore della guerra in gioco, parlando di scacchi e parlando di Go, per il tipo di gioco, cioè il Go è un gioco posizionale, le pedine non si muovono, sono tutte dello stesso tipo, e anche lo stile di cattura è molto particolare. Sembra quasi che ci sia un mondo diverso dietro, nel senso un modo di approcciare il conflitto differente. Qualcuno ha detto più di gruppo e più di strategia rispetto agli scacchi, dove conta molto il tipo di pedina. Tu come la vedi questa interpretazione? Qual è l'idea che ti sei fatta? Ma diciamo che sono due mondi totalmente diversi, perché gli scacchi comporta l'eliminazione totale dell'avversario dalla tavola di gioco, quindi fare lo scacco matto eliminandolo. Nel Go, più che eliminare, bisogna tentare di fare di più del tuo avversario. C'è una frase che mi piace molto che dice: prima di uccidere, di buttarti all'uccidere il tuo avversario, pensa a vivere. Perché solitamente i principianti, o comunque quelli che approcciano al gioco da poco, tentano sempre di distruggere l'avversario, perché magari hanno l'idea che per vincere bisogna per forza distruggere. Sì. In realtà il giocatore più forte ti fa capire che tentando di distruggere poi ottieni il risultato contrario, cioè vieni distrutto tu. Sì. Perché comunque nel Go bisogna tentare di sopravvivere e di ottenere, nel Go si parla di territori, sì, infatti, di ottenere territori maggiori rispetto all'avversario. Invece negli scacchi appunto bisogna distruggerlo totalmente. È anche vero, come dicevi tu prima, che nel Go le pedine, le pietre come vengono chiamate, non si muovono più da dove vengono posizionate, invece negli scacchi vengono spostate o comunque mosse, perché ogni pedina ha un suo valore preciso. In realtà nel Go sono tutte uguali, perché non c'è quella che magari vale di più, che se la catturi ti dà la vittoria. Sì. Sta poi nello stile o comunque nella strategia del giocatore che sta giocando la partita decidere se dare magari più importanza a creare il suo territorio o piuttosto a concentrarsi solo, se è bravissimo, a distruggere l'avversario. Bim bum bale giù! A questo proposito ti introduco l'ultima domanda, perché mi sembra che il Go, rispetto agli scacchi, che mi sembra molto una guerra tra cervelli, dove conta molto creare una serie di trappole sempre più elaborate per conquistare l'avversario, mi sembra che nel Go invece ci sia un approccio che consideri anche un po' il lato emotivo, c'è una forma di distacco e allo stesso tempo bisogna sviluppare una certa calma, una certa lucidità per affrontare la partita. Parto da principiantissimo. Sì, beh, diciamo che la lucidità nel Go è necessario, perché alla fine è tutto un gioco di strategie, di pensiero, nel senso che bisogna avere addirittura la capacità di riuscire a prevedere le mosse successive del tuo avversario, che detto così sembra una cosa proprio di un altro pianeta. In realtà, una volta che uno ci prende la mano, riesce addirittura a prevedere le mosse dell'avversario. È anche vero che bisogna tenere comunque la mente lucida, perché bisogna riuscire a crearsi una propria strategia da portare avanti lungo tutta la partita, ma bisogna anche essere in grado di poterla cambiare di punto in bianco se quella strategia ti viene bloccata. Negli scacchi diciamo che forse è solo, non vorrei dire una cosa inesatta, però forse solo calcolo e ragionamento alla fine le mosse che uno fa, perché deve riuscire a catturare, comunque fare scacco matto, e quindi calcola che in quel modo riuscirà. In realtà nel Go sì, ci sono anche un lato di calcolo per quanto riguarda poi il conteggio dei punti, quindi magari tu sai che quella determinata sequenza di mosse ti porta ad avere X punti, quindi sei in vantaggio rispetto al tuo avversario. È anche vero che un buon giocatore di Go è quello che riesce ad avere uno stile personale, avere una strategia e nello stesso tempo riuscire a tenere sempre il conteggio dei punti, di quanto è in vantaggio o in svantaggio, per riuscire a prendere poi quei punti nella tavola che ti danno la vittoria o comunque un vantaggio anche minimo della partita. Anche perché nel Go si può vincere per mezzo punto o perdere, sì, per mezzo punto, quindi bisogna sempre tenere sotto controllo più aspetti. Poi, come dicevamo prima, il lato emozionale conta molto, perché uno può sbagliare magari a contare una serie di punti e quindi si gioca l'intera partita. Sì. Bim bum vale giù. Ringraziamo Andrea Romano, consigliere della Federazione Italiana Gioco Go, per esserci venuto a trovare e per averci parlato di questo gioco così profondo e ricco di storia. Lasciamo la parola adesso a Luca Cerrato, con il consueto appuntamento con la rubrica del Fogliaccio. In questa puntata parleremo di uno dei cugini del Go, come abbiamo visto, ovvero gli scacchi nostrani e le sue varianti, per darvi un'idea del grande potenziale creativo dei cosiddetti giochi astratti a informazione completa. Bim bum balle giù presenta la rubrica del Fogliaccio, cura di Luca Cerrato. Variante degli scacchi. Oggi dedicherò questo spazio ad un gioco astratto, forse per alcuni il gioco astratto per eccellenza, gli scacchi. Non mi cimenterò nella spiegazione delle regole di gioco o in lezioni di apertura e fine gioco, ma presenterò una velocissima panoramica della sua storia e le sue varianti. Gli storici datano la sua nascita in India, verso il 500 d.C., poi avvenne la sua migrazione verso occidente col persiano Shartani, fino ad arrivare in Europa all'inizio del Medioevo. Nel vecchio continente assunse una forma simile a quella odierna, supendo anche la messa all'indice della chiesa, da ricordare come variante tradizionali di scacchi bizantini giocati su una scacchiera circolare. La migrazione degli scacchi verso oriente generò forme di gioco diverse da quello occidentale. In Cina gli shangji vengono giocati su una scacchiera dove si può notare la presenza di un fiume che divide in due parti tavoliere e all'estremità i palazzi reali da cui i re e i mandarini a loro difesa non possono mai uscire. Le statuine dei pezzi sono state sostituite da pedine cilindriche con ideogrammi in due colori, nero e rosso. Una curiosità, i due re non possono mai vedersi, cioè non possono stare sulla stessa colonna senza nessun pezzo che si interrompe tra loro. In Giappone troviamo lo shogi, giocato su una scacchiera 9x9. I pezzi sono delle pedine di forma pentagonale, allungata e, diversamente dalle altre forme scacchistiche, non esiste il giocatore bianco e il giocatore nero, ma è la freccia del pentagono a puntare verso l'avversario. Altra caratteristica, i pezzi catturati non escono dal gioco, ma vanno nella riserva avversaria. Al suo turno il giocatore può decidere di posizionare un pezzo sul tavoliere preso dalla propria riserva oppure muovere uno sulla scacchiera. Questa regola rispecchia la filosofia del samurai. Le varianti degli scacchi sono in continua evoluzione. Pensate che esistono delle varianti dette progressive che nel proprio turno permettono di muovere più pezzi. Per esempio, nel primo turno il bianco muove un pezzo, poi il nero 2, al secondo turno il bianco ne muove 3 e il nero 4. E così via. Esistono particolari regole che gestiscono la cattura e lo scacco matto. Esiste anche una variante chiamata Alice, che utilizza due scacchiere. I pezzi mossi su una scacchiera vanno ad occupare la casella di arrivo sull'altra. L'obiettivo è sempre lo stesso, dare scacco matto. La variante squadre, chiamata Back Chess o quadriglia, è molto interessante. Si gioca su due scacchiere. Le squadre sono composte da due giocatori, un giocatore col bianco e il suo compagno col nero. La partita si vince se si dà scacco matto su una delle due scacchiere, oppure uno degli avversari esaurisce il tempo a sua disposizione. Regola essenziale è che i pezzi catturati su una scacchiera possono essere rigiocati sull'altra. Quindi un giocatore può aspettare dal suo compagno il pezzo necessario per la vittoria, tenendo sempre in conto che il tempo passa. Nella variante vince-perdi, lo scopo non è più la cattura del re avversario, ma farsi catturare tutti i propri pezzi. In questa variante la cattura è obbligatoria, consiglio per tutti, fatevi sempre mangiare i pezzi più forti, per esempio la regina. Sulle chess variant, come vengono chiamate le varianti degli scacchi nel mondo anglosassone, ci serve da parlare per delle ore. Invito chiunque fosse interessato a farsi un giro in rete e per i più appassionati consiglio l'acquisto dell'enciclopedia delle varianti scacchistiche, sempre in lingua inglese. Bim bum vale giù! Il gioco del Go è uno dei giochi più antichi del mondo, porta con sé secoli di partite e di tradizioni. La grandezza della sua invenzione è riposta nelle sue regole di base, così semplici ed essenziali, e che pure nella loro apparente semplicità riescono comunque, partita dopo partita, a porre una sfida intellettuale ai giocatori che si vogliono cimentare. Oggetto molto più che di culto, ma addirittura di studio accademico, il Go è forse la rappresentazione materiale di una visione del mondo, fondata sul rispetto verso il proprio avversario e la sacralità del conflitto. Tale è il rispetto verso il gioco. Tale rispetto verso il gioco che anche lo scacchiere e le pietre sono soggetti a una cura e un'attenzione significativi. In quanto strumenti del gioco, essi assumono il valore di mezzi attraverso i quali si produce la rappresentazione del conflitto, delle due menti impegnate nel confronto, non una battaglia faccia a faccia, ma un progetto di accerchiamento e di conquista. Purtroppo non abbiamo tempo a sufficienza per percorrere il territorio del Go in tutta la sua vastità. Per questo ringraziamo Andrea Romano per la sua gentile collaborazione e Luca Cerrato per la rubrica del fogliaccio, nonché Carlo alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti: 110webradio@gmail.com, il nostro indirizzo email, e cosigiocalmondo.blogspot.com, nonché la nostra nuova pagina di Facebook. Io sono Francesco, l'appuntamento per Bim Bum Vale Giù, Così Gioca il Mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Vale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum vale giù, così gioca il mondo.